Scuola in controluce. Puntata particolare quella di oggi, parliamo di formazione, programmatori informatici, sviluppatori di software, barman, camerieri, idraulici. Le aziende li vorrebbero assumere ma non ci riescono. Sono 65.000 gli introvabili, oltre il 16% delle assunzioni non stagionali previste dalle imprese nel 2012. A tracciare la mappa delle primule rosse del nostro mercato del lavoro, l'analisi annuale Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, che viene presentata oggi a Job Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro, che si sta svolgendo a Verona. Certo, sono meno dell'anno scorso, quando le aziende cercavano senza trovarli 117.000 giovani, ma non perché sono diventati più bravi i nostri ragazzi, solo perché le aziende, a causa della crisi economica, assumono meno. Insomma, un'anomalia anche quest'anno. Siamo di fronte ad un assurdo, una sorta di paradosso. E come sia possibile un tale paradosso in un periodo in cui c'è disperato bisogno di posti di lavoro, ce lo spiega Domenico Mauriello del Centro Studi Unioncamere. Perché le imprese non riescono a trovare figure di livello elevato come appunto sviluppatori di software o tecnici dell'informatica? Perché reputano in questo caso che la formazione, la preparazione e l'esperienza anche lavorativa di queste figure non sia adeguata rispetto alle loro richieste. Dunque è una motivazione che rimanda direttamente al mondo della scuola e della formazione e alla necessità di intensificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro per poter far arrivare il giovane già preparato al momento dell'ingresso sul mercato del lavoro. Tanto per intenderci, gli informatici ci sono, anche camerieri, si cercano anche camerieri, leggevo nel rapporto. Però nel caso dei camerieri le motivazioni, come nel caso dei termoidraulici, degli idraulici, le motivazioni sono diverse. In questo caso sono da riferire o a motivazioni di ordine culturale in qualche modo, cioè professioni non appetibili, professioni che soprattutto per i giovani non fanno fighetto. Quindi insomma per il ragazzo fare il cameriere non è l'aspirazione della vita. Esatto, turni, sabati e domeniche al lavoro, eccetera. Però in alcuni casi si tratta anche di difficoltà legate alle caratteristiche della stessa domanda di lavoro, perché spesso per figure professionali qualificate, soprattutto operaie specializzate, ma anche spesso dei camerieri, ai quali è richiesto molto spesso la conoscenza di più lingue, ebbene non vengono remunerate in maniera adeguata. C'è molta differenza da regione a regione, naturalmente, perché dipende anche dai comparti produttivi che esistono nelle varie regioni. Vogliamo ricordare qualcuna, cioè quali sono le figure professionali per esempio più richieste in Lombardia piuttosto che in Piemonte? Sì, ovviamente le difficoltà variano da regione a regione. Al sud le difficoltà sono storicamente inferiori perché c'è molta più gente che bussa alle porte delle poche imprese disponibili ad assumere, per cui lì le difficoltà sono davvero storicamente ridotte al minimo e anche ancor più adesso in crisi. In Lombardia c'è tanta necessità proprio di quelle figure della filiera dell'information and communication technology di cui parlavo. Quindi gli informatici ci sono, ma non sono formati abbastanza bene, non escono dalle nostre scuole, dai nostri percorsi di formazione. Esatto, ripeto, proprio per questa mancanza di competenze legate al mondo del lavoro. Il giovane si affaccia sul mondo del lavoro senza aver mai visto prima un'azienda e soprattutto senza aver sviluppato quelle competenze trasversali, come si chiamano in termini tecnici, che per gli imprenditori ormai valgono quanto, se non addirittura più, delle stesse competenze tecniche. Faccio un esempio: la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di adattarsi e dimostrare flessibilità alle condizioni mutevoli del lavoro di tutti i giorni sono considerate delle competenze, delle attitudini strategiche da parte delle imprese, indispensabili per poter raggiungere quella posizione lavorativa scoperta. Ahimè, il mondo della formazione in Italia è strutturato diversamente nella didattica rispetto a quello di altri paesi, soprattutto i paesi anglosassoni, dove fin da piccoli sono abituati a lavorare in gruppo. Abbiamo detto della Lombardia, potremmo anche dire ad esempio del Trentino Alto Adige, dove c'è un target turistico molto alto e di conseguenza le imprese faticano un po' a trovare tutti quegli addetti alla clientela, ai turisti, soprattutto camerieri, magari in questo caso davvero poliglotti. Beh, anche nel Lazio, ad esempio, dove scarseggiano alcune figure professionali di livello intermedio, come quello degli idraulici e dei termoidraulici, in questo caso essenzialmente perché c'è una sovrabbondanza di offerta di lavoro gli imprenditori spesso, come dicevo prima per altre professioni, non riescono a remunerare in questo momento adeguatamente dal punto di vista economico un lavoratore qualificato proprio nel campo idraulico e termoidraulico, tant'è che preferiscono fare i lavoratori autonomi piuttosto che stare alle dipendenze di qualcuno. Che fare? Quali sono le vostre proposte? Spingere sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e sono sullo sviluppo di un vero orientamento, non dunque di un orientamento fai da te, che molti giovani sono abituati a fare stando su internet, ma di un orientamento che tenga effettivamente conto di quelli che sono i cambiamenti del mondo del lavoro, quello che le imprese oggi richiedono, che ripeto non sono competenze tecniche, ma sono sempre di più competenze trasversali, indispensabili per poter oggi entrare nel mercato del lavoro e che si acquisiscono solo attraverso stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Insomma, programmatori ed idraulici in realtà ci sarebbero, ma la nostra scuola non li ha abituati a lavorare in gruppo, non li ha abituati ad essere flessibili come ormai necessario. Allora è proprio sulla scuola che bisogna agire, un mondo del resto, quello della scuola, che in realtà si sta muovendo anche che, se con i tempi della scuola, quindi troppo lentamente. Elena Ugolini, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione. Noi in questo momento stiamo facendo il massimo dello sforzo per riuscire a riannodare la filiera formativa con la filiera produttiva, costruendo un rapporto stretto tra il mondo delle professioni del lavoro e il mondo della scuola, non solo per il settore tecnico professionale attraverso la costruzione di poli tecnico professionali in cui le aziende, le imprese piccole o medie entrino proprio dentro la progettazione del curriculum scolastico, dentro il potenziamento dell'offerta formativa, ma anche per tutte le altre scuole, anche per i licei, stiamo cercando di potenziare la possibilità di fare dei periodi di stage in azienda e quindi di favorire un'alternanza scuola-lavoro. Tutti i ragazzi dovrebbero nel corso delle scuole superiori aver fatto un periodo di stage in un'azienda, in uno studio professionale, in un laboratorio di ricerca, per capire che cosa fare poi da grandi, quindi anche in funzione orientativa. E invece per l'istruzione tecnica e professionale questo ovviamente è un must. Però insomma la scuola italiana resta in ritardo da questo punto di vista. Si può dare un'ulteriore spinta? Certamente. Oggi a Job Orienta raccontiamo esperienze del polo dell'economia del mare a Genova, del polo della robotica a Torino, del polo delle calzature nelle Marche, del polo del turismo in Veneto, del polo della meccatronica a Vicenza. Sono esperienze che fanno capire come concretamente sia molto facile avere questo dialogo tra il mondo dell'azienda, dell'impresa, delle professioni e il mondo della scuola. Oggi a Job Orienta presenteremo anche dei progetti per migliorare e potenziare l'alternanza scuola-lavoro. Uno è quello che faremo con Union Camere per migliorare la qualità dei tirocini formativi in azienda anche in una prospettiva internazionale. Presenteremo un progetto in cui 1200 ragazzi faranno a livello nazionale degli stage in aziende italiane e anche in aziende estere collegate ad aziende italiane. Presenteremo un progetto che faremo con Finmeccanica, ma stiamo facendo accordi con l'Associazione Nazionale dei Calzaturieri, con Confagricoltura, Confartigianato, cioè tutte le associazioni di categoria, il mondo produttivo sta dando una grandissima disponibilità e la scuola sta rispondendo bene e questo mi fa ben sperare. Un'ultima domanda, 65.000 persone cercate dalle aziende non trovate, non ci sarà in mezzo a questi ragazzi qualche schizzinoso, qualche ciusi? Ma i ragazzi sono il nostro specchio e se i ragazzi avranno a che fare con adulti che sapranno raccontare le esperienze positive che hanno fatto nel mondo del lavoro, in qualunque tipo di ambito si siano impegnati, io sono sicura che i ragazzi saranno pronti a seguirci, a imparare e a fare meglio di noi. Ed è tutto per Scuola in Controluce, vi ricordo la nostra pagina Facebook, appunto Scuola in Controluce, un saluto da Maria Piera Ceci.